veloce se stai con me. Col cuore che piange amaro, capisco è giusto così, ma no, difficile accettarlo, il sentimento